Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Tempo fa discutevo con alcuni vicini di casa su delicate questioni condominiali. Si parlava della gestione alternata da parte di condomini di uno spazio pubblico, un parcheggino interno. Chiunque potrebbe metterci la macchina, ma naturalmente non ce la possono mettere tutti, bisognerebbe fare rotazione, ma sempre una macchina fissa, sempre la stessa. Io, novellino di quel tipo di habitat, dico: ma scusate, ma non si può dire alla persona che ce la mette sempre, che magari qualche volta la parcheggia qualche altra parte, così ce la mettiamo anche noi? E no, è un avvocato. Dico: allora, ma lei è pazzo, vuole mettersi contro un avvocato? Io in quel momento ho capito che la percezione generale del nostro paese dell'avvocato è qualcosa di metafisico, è qualcosa che va oltre il ruolo di questa professione. E siccome ieri abbiamo chiarito, almeno abbiamo tentato di chiarire in realtà la esatta accezione lessicale del termine lobbista, che tutti pensavano afferire a occulti gruppi di potere, innominabili sinarchie, in realtà sono persone che fanno un lavoro lecitissimo di mettere in contatto persone che decidono per leggi rispetto a gruppi di interessi che attorno a quelle leggi avrebbero qualcosa da dire. Insindacabile professione. Anche l'avvocato questa mattina vorrei capire come è percepito dal sentire comune. Io giorni fa mi sono occupato di una vicenda molto divertente e singolare che non ho riportato alla radio, me ne sono occupato per altre cose, di un certo avvocato italiano, l'avvocato Giacinto Canzona, che ormai è diventato un grande personaggio, che oltre a svolgere la sua professione di avvocato svolge la fantastica professione di istillatore di fantanotizie nel circuito nazionale. Ricordate, noi parlammo del gatto Tommasino, il gatto Tommasino se l'era inventato lui. Noi parlammo di vicende tristissime, di suore beccate a 100 all'ora sull'autostrada, di preti ubriacati con il vino della messa, di povere mamme incinte che hanno dovuto abortire perché vittime del naufragio del Costa Concordia. Io non ho il telefono addosso. Sento in sottofondo un telefono che sta chiamando. Tutte queste sono tutte notizie inventate, costruite, articolate dalla fantasia dell'avvocato Canzone. Quindi evidentemente questa mattina è necessario porre un chiarimento su come è percepita la figura dell'avvocato. So che molti avvocati ci ascoltano. Anche voi avvocati, fatevi sentire. Perché di voi c'è questa idea fantomatica? Perché ogni italiano ha un avvocato nel cassetto? Quante volte mi sono sentito dire: ti faccio scrivere dal mio avvocato. Sì, anch'io ho un avvocato, è logico, ma un avvocato perché ognuno di noi ha questioni di tipo professionale a dirimere, quindi c'è bisogno di un avvocato. Un giornalista in modo particolare ha spesso bisogno di un avvocato. Ma perché ogni italiano ha un avvocato nel cassetto? Perché ogni minaccia ti faccio scrivere dall'avvocato? Perché l'avvocato è visto come una sorta di persona che dovrebbe incutere timore? Perché dovrei aver paura di dire al mio vicino di casa: guarda, sposta la macchia, che ogni tanto piacerebbe mettercela anche a me, soltanto perché è avvocato? 800 24 0024. Avvocato, sei felice? Sì. 250.000. 200. Qui Bicini, il padre del ladro, eh? Mio figlio è innocente. È innocente Bicini, ma c'ha una faccia da ladro. Anche a me dicevano che c'avevo la faccia da ladro, sì. Invece sono un perfetto galantone. Si vede Bicini. Che dice, si risolve sta faccenda. Oggi te lo porti via, va bene? Avvocato. Sì? Avvocato, vengo. Vengo! Avvocato. Sì, Bicini. Io non ci dico niente. E che devi dire? Che devi dire, Bicini? State zitto, c'ho la causa in pugno. Bicini, vieni a sentire. Questa volta te la sei fatta franca. Sta attento per un'altra volta perché sarai incriminato come falso testimone. Hai capito? Via! La parola al pubblico ministero. Devo dire che mentre le grandi fiction americane, i fantastici telefilm che si guardano sui canali satellitari, spesso fanno vedere delle figure di avvocato al di là, oltre ogni dimensione umana, super iper avvocati, dalle capacità fantomatiche di costruire, demolire, scoprire, incastrare, avvocatesse che girano con la pistola alla cintola, che distribuiscono colpi di arte marziale, che si districano attraverso ferocissimi delinquenti, burocrati corrotti, avvocati affascinanti. Beh, invece la nostra filmografia nazionale in realtà ci ha sempre dato delle figure di avvocaticchi piuttosto tristi. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Oggi la tua materia è l'avvocatura. In questo caso di cosa stavamo parlando? Questo era Buonanotte Avvocato del 55 di Giorgio Bianchi con Alberto Sordi. Il ruolo dell'avvocato ovviamente è molto ambito dai nostri attori. L'arringa è un momento classico in cui si dispiegano tutte le facoltà recitative. Qui abbiamo un Alberto Sordi che l'ombrosiano, che cerca di dimostrare che proprio perché il suo imputato ha la faccia da ladro è innocente, perché appunto è impossibilitato a rubare, perché con la sua faccia crea diffidenza nella gente sul tram e lo farà condannare. Ma soprattutto c'è un Sordi che ama anche la deboscia, come ogni fanta avvocatura, soprattutto le fante avvocature qui della capitale, quando il palazzo di giustizia era il porto delle nebbie. Questi avvocati hanno sempre questa doppia valenza di essere anche dei goderecci, avere sempre delle clienti procaci. In questo caso anche Sordi conferma questo stereotipo. Oltre quello, conferma lo stereotipo dell'incassare denaro, dell'essere corruttibile, infatti riceve queste banconote dal padre dell'imputato. Insomma, c'è questa luce un po' oscura, quella tenebrosa, che si getta su queste figure forensi che paiono particolarmente vocate alla corruzione. Ecco, già arrivano i primi SMS: avvocato uguale sanguisuga, ciao Stefano. Beh, questa cosa qui lapidaria. Lapidaria. Io vorrei riportare nella normalità, e vorrei che qualche avvocato mi suggerisse, se vuole, alcuni aspetti che si prestano nella sua professione appunto a questi parossismi caricaturali. Perché l'avvocato presta tanto il fianco? Forse perché ha la toga, forse proprio fa la ringa, forse che abbiamo delle figure fantomatiche di avvocati che danno adito a delle fantasie. L'altro giorno ho sentito una collega raccontare di un processo in televisione che avveniva alle nostre latitudini, adesso si ritira la corte, perché guarda tanti telefilm americani, quindi si ritira la corte in un telegiornale. E se nella sua ingiusta richiesta la pubblica accusa si è lasciata influenzare dalla fisionomia dell'imputato, io posso assicurarvi che la faccia da ladro non fa il ladro. Che un individuo con questa faccia è nella completa impossibilità di rubare. Signor Presidente, la gente quando lo vede si mette subito la mano sul portafoglio. E questo quando ruba. Per rubare, signori miei, ci vuole una faccia onesta come la sua. Pardon, come la mia, come quella di tanti altri. Pertanto, visti gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 36 del codice penale, io chiedo l'assoluzione con formula piena, perché la faccia non costituisce reato. In nome del popolo italiano, il tribunale, visto l'articolo 624 del codice penale, dichiara Federico Bianchini colpevole e lo condanna alla pena di anno 1 di reclusione. Va bene? 800 24 0024, parlateci delle vostre vicende con avvocati, raccontateci gli avvocati della vostra vita. Quante volte avete ricorso a un avvocato? Quante volte vi siete sentiti pressati da un avvocato? O voi avvocati, quante volte siete stati schiavi di uno stereotipo, di una figura che è vista stretta? Quante volte io, ragionando, quando mi hanno presentato in simpatiche occasioni conviviali gli avvocati, e ho sentito questa giustificazione: faccio l'avvocato, purtroppo faccio l'avvocato, purtroppo. Perché? Giovanni, buongiorno. Pronto? Avvocato, lei? Giovanni? Pronto? Sì, Giovanni. Purtroppo non si sente. Si cerchi un avvocato, Giovanni. Andiamo avanti. Giuseppe Sansonna. Ma l'avvocato è l'arte della facondia, l'arte della parola, l'eristica, come i sofisti Protagora e Gorgia, che sono così profondamente connaturati con la cultura italiana, in cui attraverso la parola si può dimostrare tutto al di là della verità delle basi concettuali di partenza. È questo che si chiede a un avvocato, di comunque condurre alla salvezza l'imputato anche quando ci siano delle pesanti ombre su di lui. Che poi non dovrebbe essere così. L'avvocato è semplicemente trovare gli strumenti propri del diritto, della giurisprudenza, per dare a un imputato le occasioni di articolare una sua difesa. Però il suo latinorum da zecca garbuglia, appunto, che è l'archetipo primario di tutti gli avvocati. Quello... Sì, ma è una visione molto casareccia e nostrana. Tu guarda i telefilm americani di avvocati, tutto fanno meno che questo. Fanno azione, come dicevi tu. In Italia è pura parola, è una figura statica, ma molto abile a parlare. Giovanni, l'abbiamo recuperato? Sì, buongiorno. Ecco, adesso la sento bene. Buongiorno, avvocato. Sono in auto. No, no, io non sono un avvocato, mi perdoni. Io volevo dire che secondo me, se posso parlare anche se non sono avvocato, naturalmente. Naturalmente, certo. Che, può anche parlare in presenza del suo avvocato, se preferisce, o anche da solo. Come vuoi. Preferisco farne a meno, visto che quando mi sono rivolto a qualcuno di loro mi hanno così liquidato chiedendomi se volevo la fattura o meno, le lascio immaginare come è andata a finire. Ma quello che volevo dire era che Alberto Sordi ha dato sicuramente un'immagine reale dell'italiano medio, ma assolutamente diseducativa. E volevo fare un altro piccolo riferimento a quanto un giudice, Raffaele Cantone, diceva che lui l'avvocato non lo vorrà mai fare, proprio perché non si vorrà mai trovare nella situazione di dover difendere dei colpevoli. È proprio quello il ruolo dell'avvocato. Esatto, l'innocente ha già strumenti, diciamo, parte già da una base, almeno dovrebbe partire da una base di favore, il colpevole che ha proprio bisogno dell'avvocato. Grazie. Maria Luisa, buongiorno. Buongiorno. Vi voglio raccontare questa piccola cosa successa qualche anno fa. Noi siamo qui in Brianza, in un cortile privato. E un signore voleva far passare da questo cortile privato, per arrivare a un suo capannone, la corrente industriale. Noi tutti eravamo d'accordo di non farlo passare, allorché questo signore, tagliato proprio, manda una bella raccomandata dall'avvocato. E quindi? È ognuno, cioè persone magari un po' anziane, si sono ritirate, ma no, soltanto io e un signore abbiamo detto no, cosa vuol dire? Quindi conferma quello di cui oggi basta, faccio scrivere dal mio avvocato, già la gente sì, ha paura. Infatti quelle persone lì che erano sulle certe tale, ma no, oh, si è fatto scrivere dall'avvocato, no, facciamolo fare, solo io e un altro, dice, ma no, io trovo l'avvocato, ma cosa vuol dire? Lo so, che la paura dice, anche io devo mettere un avvocato, quando poi al condominio... Io ho avuto già altre storie, gli ho telefonato alla sua avvocatessa e gli ho detto, ma senta, cosa vuol dire? Ma io ho fatto quello che mi ha detto il mio cliente, ma... è proprio inutile, no, è il coso privato, non si fa. Quindi lei conferma che in realtà ognuno di noi potrebbe avere un Alberto Sordi nel cassetto e con quella sola minaccia spaventare le povere vecchiette. Magari in una certa età no, ma quelli sopra i 60, sì, così sì. Solo la parola, il nome avvocato spaventa, fa venire tremore. Sì, è vero. E quindi sono contento di avere toccato un punto dolente della sensibilità comune. Andiamo avanti con Sara. Sara. Sì, buongiorno. Avvocato. Sono un avvocato. Oh, finalmente un avvocato. Del Foro di Roma. Abbassi la radio però, avvocato. E devo dire che l'intervento di Alberto Sordi, quel bel pezzo di Alberto Sordi, è molto simpatico, però sinceramente fa sorridere anche noi avvocati. Eh sì, perché tutte le avvocatesse sono da Hedwig Fenech in su, quindi farebbe ancora più sorridere parlare di avvocatesse. Ma io devo dire che è vero che è una classe godereccia, ma forse proprio perché a noi piace anche molto vivere, quindi è una classe spendacciona. Le avvocatesse vengono definite tutte molto belle, ma perché ci piace vestire bene, curarci, a differenza magari di altre categorie come le dottoresse, che con il loro camice... Sotto il camice dottoresse non si sa... Volte... Io sono sempre condizionato dall'immaginario dei filmacci degli anni 70. Anche l'avvocatessa, che devo dire, sotto il rigore della tonaca può scatenarsi con una bollentezza carnale inimmaginabile. Sì, è vero. Io volevo dire questo. Che forse il contatto con la sofferenza, con la reclusione, che fa di voi delle crocerossine dell'amore. Allora, guardi, io in realtà faccio famiglia nel civile e nel penale, quindi indosso la toga, ma spesso e volentieri la tolgo anche per soccorrere situazioni molto tristi familiari che magari coinvolgono minori, bambini che soffrono, quindi è vero che siamo in contatto con una realtà che poi quando ne usciamo, finito il lavoro, ci porta, ecco, allora magari a preferire una bella cena tra amici, uno spettacolo, un teatro, ci piace appunto essere contornati da belle cose, forse proprio perché si vive in una situazione sicuramente sempre di tristezza o comunque di un problema. Vabbè, certo, dall'avvocato si va solo per cose. Posso dire, diciamo, di simpatico, che a me fa sorridere quando mi capita, è vedere questi clienti che ti arrivano con le sentenze stampate, che le prendono da internet. Questo è un po' il limite. Oggi dice, guardi, vedi, c'è una sentenza. C'è una tentazione nel farlo, veramente. Esatto. E poi in Italia devo dire che si è tutti avvocati, secondo me, per nascita, perché l'italiano è attento, polemico, tignoso, quindi veramente a volte io vedo che proprio i miei clienti compartecipano con me nella difesa e mi danno suggerimenti. L'avvocato piace in Italia, a differenza forse di altri paesi che è visto ancora con più diffidenza che in Italia, perché in altri paesi prima di dire ti faccio scrivere da un avvocato ci pensano molto, perché in America per esempio è costosissimo, in Inghilterra pure. Invece in Italia l'avvocato, appunto, magari è in ogni famiglia, un laureato in giurisprudenza. Quello dicevo io, ognuno di noi è un avvocato nel cassetto, sempre un amico, un parente, un signore del condominio in ciabatte che magari da ragazzo ha frequentato uno studio di avvocati. C'è sempre un ragioniere pronto a scrivere una lettera che assomiglia a quella di un avvocato. Questo è il limite. Grazie, Sara. Ma d'altra parte, non è questa stessa nostra legge che prescrive siano assolti i minorati psichici? Ebbene, perché non dovrebbe essere assolta una maggiorata fisica come questa formidabile creatura? Questa apoteosi che coniò anche un neologismo, la maggiorata, fu una delle gloriose rappresentazioni di tutto lo stereotipo attoriale di cui parlavi prima, Giuseppe. Esattamente, qui rinasce Vittorio De Sica come attore dopo i Telefoni bianchi, dopo il periodo del fascismo. Nel dopoguerra era un po' ostracizzato per i suoi film neorealisti fatti da regista, e Blasetti lo recupera in altri tempi e gli dona questa nuova veste che poi acquisirà per sempre, questa voce flautata, questo baffetto maliardo e la capacità di salvare la colpevole Lollobrigida, paragonandola a Frine, la modella di Prassitele e di Apelle, che fu salvata perché il suo difensore scoprì il suo seno, e quindi davanti alla bellezza si rimane in contemplazione, non si può colpevolizzare, non si può imprigionare e condannare la bellezza, e lo stesso fa lui. Ecco, questo però diciamo è un condensato di tutto quello che abbiamo detto all'inizio della trasmissione, esattamente. Il narcisismo esibizionista in certi momenti, e anche la capacità appunto di ammaliare attraverso la parola, attraverso il proprio timbro, le pause, c'è qualcosa che lega molto al teatro e al cinema stesso. Sentiamo Alfredo. Alfredo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io ero in macchina, stavo appunto recandomi in tribunale, ho ascoltato che oggi la sua trasmissione diciamo si interessava della figura degli avvocati. Io ritengo che... Cosa va a fare il tribunale, Alfredo? Ho una causa alle 11:30, mi porto un po' avanti. Insomma, ah, è avvocato lei? Non avevo capito, è un avvocato. Sì, faccio l'avvocato. Ecco, io ho una sensazione, io ho 35 anni. È un giovane avvocato. Sì, è un giovane avvocato. La sensazione è che un po' oggi l'immagine dell'avvocato sia effettivamente distorta. Probabilmente perché, non lo so, nel corso degli anni... Anche prima in trasmissione si faceva riferimento probabilmente alla cultura cinematografica italiana, che ha veicolato, diciamo, l'immagine dell'avvocato come un avvocaticchio piuttosto che... Però sa, Alfredo, un Perry Mason. Sì, il cinema di cui parliamo noi è un cinema che non è che condizionasse l'immaginario, era lo specchio più fedele dell'immaginario palpitante nella società, quindi evidentemente c'era questa percezione. Probabilmente anche questo, poi forse perché fonte della rappresentazione cinematografica era appunto quella realtà. Oggi vi assicuro che la professione di avvocato è una professione molto molto difficile, ed è una professione anche molto molto seria, perché spesso si ha a che fare con, anzi non spesso, sempre si ha a che fare con questioni molto delicate che afferiscono agli interessi a volte economici ma anche personali dei clienti. E credo anche che un po' l'immagine che gli italiani oggi hanno degli avvocati sia per certi aspetti liquefatta anche in considerazione della forte spettacolarizzazione della giustizia, cioè creare anche, non lo so, a tutti i costi dei casi che debbono far discutere dal gattino che finisce sotto l'auto piuttosto che dalla separazione cruenta dove il ma lei parla di quei programmi tarocchi tipo Forum, sì, dove, ecco, sì, sì. Quelli, beh, quelli diciamo sono programmi un po' per la quinta età, sono programmi ormai diciamo rimorti, sì, ma destano molto è la formaldeide per la fascia più avanzata di pubblico televisivo. In realtà però lei si ricorda al tempo, lei è giovane, al tempo del processo televisivo di Mani Pulite, Di Pietro nacque come personaggio, certo, in quel tipo di, era un format televisivo vero e proprio, ricordo con l'Aspesi fra i giornalisti, Di Pietro, le arringhe, gli imputati, la bavetta dei democristiani, Forlani che sono... era un fantastico spettacolo. Come no, era la classe politica che veniva, sedeva al banco degli imputati. Craxi questo... strepitoso, Craxi vertiginoso come attore, il primo attore vero. Certo. Era un film, sì. Era un film che è piaciuto molto. Agli però italiani hai ragione, poco... Alfredo, sai che hai ragione? Oggi siete stretti fra due poli. Fra una lettura tradizionale e ormai passatista dell'avvocato La De Sica e la lettura muscolare e fantaeroica degli avvocati e telefilm americani. Mi rendo conto che per voi è un discrimine difficile orientarsi in questa sorta di due interpretazioni entrambe paradossali. Ci sentiamo tra un istante, dopo le informazioni della borsa. Melog. La realtà condivisa. Glezio! Richiamo l'imputato all'ordine! Signor Presidente, ora tocca a lei giudicare della nostra assoluta innocenza. Chi gioca ai cavalli è, come dire, è un misto. Ecco, è un cocktail, è un frullato di roba. È un minorato, è un incosciente, è un ragazzino, è un dritto, è un fregnone, è un milionario pure se non c'è una lira, è uno che non c'è una lira pure se è un milionario, un fanatico, un credulone, un buciardo, un pollo, è uno che passa sopra tutto e sotto a tutto, è uno che impiccia, traffica, imbroglia, muore, azzarda, spera, rimore, è tutto per poter dire ho vinto, adesso l'ho fregato a tutti e mo beccare questa, chi è? Ecco chi è, ed è per questo che io chiedo alla clemenza della corte il beneficio delle attenuanti per totale infermità mentale. Ecco, siamo anche questo, un paese di finti avvocati. Non basta già che dell'avvocato abbiamo immagini macchiettistiche, stereotipate, è cavallo di battaglia di tutti i nostri attori caratteristi, ma c'è anche questa clip che ci è stata richiesta a furor di popolo, presa da Febbre da Cavallo, quello autentico, quello degli anni 70, l'anno in cui nacque il ragioniere Rocchetti che dirige la nostra messa in onda, c'è un finto avvocato. Proietti, avendo il dono della favela, può benissimo fare il ruolo dell'avvocato senza essere avvocato. Proietti appunto davanti al solonico giudice Adolfo Celi, che incarna appunto tutta la marmorea istituzione, e appunto diventa Cicero pro domo sua e lancia questa catenaria sul suo ruolo di giocatore di cavalli, e quindi l'autosoluzione, e addirittura invoca per se stesso l'infermità mentale in quanto appunto impossibilitato a discernere dalla... Poi vedi, c'è una citazione che non ho mai notato sull'avvocato di De Sica della Maggiorata, lui dice io sono un minorato, e ci sono dei parallelismi, secondo me nella mente di chi ha pensato questo monologo c'era un rapporto antitetico rispetto a quello di De Sica, pensaci bene. Certo, ma anche perché l'infermità mentale era un escamotage tipico, perché appunto era indimostrabile che uno possa essere in se stesso. Poi ci sono casi su casi di serial killer. Un amico mi segnalava molti boss della camorra che si fingono infermi mentalmente, che hanno studiato a lungo tutte le posture e le modalità per riuscire a ottenere questo, quindi c'è una via d'uscita, un exit strategy molto usata e abusata negli anni, quindi non è un caso. Ivan, buongiorno. Spenga la radio. Sì, buongiorno, mi sente? Come no, benissimo. Perfetto, allora io volevo fare un intervento partendo da quello che ha detto una collega mia prima che è intervenuta. Non ricordo il nome, ma diciamo di... Non glielo dirò nemmeno sotto tortura. No, assolutamente no. No, perché la collega che ha messo che sotto la tonaca ribolle carne avvocatizia, quindi infatti, non gli dirò il nome. e volevo, diciamo, intanto sposare le tesi portate avanti dalla collega in riferimento appunto all'immaginario collettivo che c'è diciamo intorno a questa figura un po' particolare, un po' più strana, diciamo, che lei ha sottolineato più volte. Però volevo riferirmi alle cause di questo immaginario, e tanto per cominciare non ci dimentichiamo che il diritto italiano, l'Italia è sempre stata la culla del diritto. Noi abbiamo un diritto che affonda le proprie radici addirittura nell'antico impero romano. Il nostro diritto attuale si basa molto su quello romano. Il diritto civile nostro è essenzialmente copiato dall'antico diritto romano. Questo non ha fatto altro che farci assorbire questa cultura, che poi diventa anche una mentalità, ed è uno. Due, nelle lauree vecchio ordinamento, quindi prima delle riforme che poi hanno dato luogo alla divisione tra triennali e specialistiche, la laurea in giurisprudenza l'ha sempre fatta da padrona, e molte volte, soprattutto nel sud Italia, la laurea in giurisprudenza diciamo era una quasi una scelta obbligata, anche perché qualunque altro tipo di laurea non dava facili sbocchi lavorativi. Sì. La maggior parte dei concorsi pubblici, e noi sappiamo che il Sud, certo, purtroppo gioco forza, ha sempre dovuto un po' vivere anche vero il presidenzialismo, e quindi diciamo il pubblico impiego è sempre stato. Maria, buongiorno. Buongiorno. Io volevo semplicemente dire quella che forse è un'esperienza particolare che capita proprio giusto questa trasmissione in questa mia fase, perché per 15 anni è stata una scelta, forse più di 15 anni ho scelto di fare l'avvocato, sono mamma di tre figli, oggi insomma grandicelli. E a un certo punto ha fatto una scelta eroica, scusi, ha buttato lapsus maledetti. Sì, ho cominciato, mi aspettavo la prima e sono nati tre. Ha gettato la toga alle ortiche e ha messo il grembiule da massaia. Ma guardi, io come dicevo prima, non è l'aspetto organizzativo che è stato difficile, perché io riuscivo, anzi, la libera professione la organizzi benissimo. Se non può crescere un figlio un'avvocatessa, cosa dovrebbe fare un'operaia alla catena di montaggio? In fondo la giornata se l'organizza bene, la mattina ci sono le udienze. Certo, quindi... ma poi si condivide con i colleghi nei periodi più critici, io condividevo con i colleghi, dividevamo tutto, quindi, però non è questo. Allora perché questa scelta radicale? Quello a cui faceva riferimento lei, cioè questo stereotipo che sta a un certo punto stretto. È bellissimo questo lavoro, è bellissimo il rapporto con le persone, lo spaccato privilegiato che puoi avere della società, però devi essere arrabbiata, non puoi essere serenamente determinata. Ma certo, una mammoletta non può fare l'avvocato, diciamo la verità. Ecco, è solo questo, cioè mi è servito, tutti questi messaggi che lei ha lanciato mi hanno proprio aiutato forse ad elaborare quello che... Ma quando i suoi figli cresceranno, avranno barba e baffi, diranno mamma non romperci le scatole, noi usciamo, anzi dacceli i soldi. E lei che ha lasciato la toga per una carriera materna, ritroverà la sua cattiveria? No, io non voglio mai pensare alla cattiveria, assolutamente. Poi se pensa che questo lavoro io l'ho fatto nel profondo sud, nella Calabria ultra proprio, dove non è che si difendevano ladri di galline, diciamo la verità, in Nord Africa, ecco, allora non è che c'era tutto questo riscontro, certamente c'era, però a me piaceva anche leggere le poesie, a me piaceva anche recitare, eppure questo era visto male nell'ambiente, perché tu che devi essere così agguerrita non puoi poi in un convegno recitare ad esempio Repaci, perché sei un doppione assolutamente inaccettabile. Vabbè, non aveva il pelo sullo stomaco per fare l'avvocato, diciamo la verità, è giusto lei faccia la mamma, faccia la poetessa e si dedichi ad occupazioni più delicate per la sua natura. Tutto questo può essere vero da un punto di vista umano, ma sa cara signora, summa in iuria. Scusi, avvocato, ero distratto, ho questa Giulia. Ma no, in iuria è latino questo. Scusi, l'avevo preso per siciliano. Ecco, secondo la articoli 58, 60 e 65, lei è legittimo consorte della signora. Ma sono il consorte, legittimo. Ma, in virtù dell'articolo 68, cioè, se il morto ritorna... Quindi aveva ragione quell'avvocato per cui impropriamente partì la motosega, non certo per noi, fu un errore di regia, diciamo... noi, essendo culla del diritto, come vedi, abbiamo un'ampia facoltà di scherzare, di motteggiare sulle formule latine, sul ghiribizzo, sul burchellismo vocale, sull'invenzione lessicale dell'avvocato. Aroldo Thieri in questo caso incarna lo stereotipo tipico di quegli anni dell'avvocato del sud, con i capelli ravviati all'indietro, gli occhialoni spessi, che si imbatte nel tritale semi Totò che lo sbriciola, che ne rivolta in farsa qualsiasi tentativo di latinismo, qualsiasi citazione del codice. Qui è appunto Lettera a tre piazze, in cui Totò torna dalla Russia e vuole Nadia Gray, vuole sua moglie, che lo credeva morto e si è data a Peppino De Filippo. Quindi qui l'avvocato si insinua addirittura fra i due pretendenti, cogliendo poi la moglie, sposerà poi la donna. Quindi c'era già un problema molto, molto spinoso di un resumato marito, quando la moglie già aveva un altro marito, quindi anche in epoca in cui erano argomenti molto spinosi, come vedi rimane sempre... Poi l'avvocato anche in Italia, non abbiamo citato questo, cioè è l'innominato per eccellenza, l'avvocato, la gamma maiuscola, è Gianni Agnelli, insomma, questa figura anche... Sì, però nell'epopea che con la sua scomparsa dal mondo, le generazioni più recenti non sanno nemmeno l'avvocato. Noi viviamo nel mito dell'avvocato, l'uomo più conosciuto, più invidiato, più potente, più criticato d'Italia, veniva chiamato l'avvocato, anche se non esercitava appunto la professione dell'avvocatura. Come vedi, si riverbera sempre quello che noi siamo noi. Per essere l'avvocato è una figura iperbolica in Italia, una figura dell'immaginario, fa parte dell'immaginario collettivo molto più di quanto faccia parte delle reali figure professionali. 800 24 0024, informazioni del traffico, ci fermiamo un attimo. Melog, la realtà condivisa. Un uomo che è capace di ingannare sua moglie, che è capace di ingannare i suoi superiori, perché non potrebbe, dico io, e anzi perché non dovrebbe, aggiungo, ingannare, o almeno tentare di ingannare, anche la corte. Sorvolando sul fatto, vero, che nel 60 il Fioravanti è stato arrestato e trattenuto 2 giorni in guardina per ubriachezza molesta. Ma era capodanno. Motivo di più per non cominciare l'anno in galera, vero figliolo? Oh, ma c'è dell'altro, perché il Fioravanti è una miniera, perché nel 61 fu arrestato e questa volta per invasione di campo in una partita di calcio. È vero, lo spiego. In una pacifica partita di calcio, Roma-Napoli. È vero, e c'è di più, che il suo nome è iscritto nel bollettino dei protesti per cambiali non pagati. È vero, che ha una sorella schedata alla questura. No. E che altro vi devo dire? Che altro potrei aggiungere? Che ha un fratello quasi demente, affetto da tipica distimia schizoide, grazie. Che suo padre, non poteva mancare in questa rassegna di avvocati tromboni, naturalmente, Vittorio Gassman. Mi stanno scrivendo, Giuseppe Sanson, stai attento che l'avvocato che avete segato adesso vi denuncia, vi fa scrivere. Sì, sì, ma sì. No, ma non l'abbiamo segato. No, ma è stato un inconveniente, partita la motosega così. La motosega parte da sola molte volte, è ad accensione spontanea, non c'entriamo noi. Se è un avvocato come questo Gassman balanzoniano, che ripercorre tutta la vita normale del testimone volontario Tognazzi e ne trova delle pecche per invalidare la sua invece testimonianza su un caso di omicidio, ecco, qui diventa appunto il potere della parola, il potere dell'indagine che sviscera, appunto, come dicevi tu, a volte col pelo sullo stomaco. Cioè non si può essere anime belle per andare a vivisezionare la vita del testimone per coglierne appunto i lati meschini che possono invalidare la sua parola, che renderla, porla in cattiva luce. Questo è anche appunto il compito. Claudio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, volevo raccontare... Radio, spegnere la radio. Sì, una piccola storiella che mi raccontava mio nonno a proposito degli avvocati. Questo avvocato aveva un figlio che si era laureato e quindi doveva imparare un attimino la professione, quindi stava col padre nello studio. Successe che lì nelle vicinanze c'era un contadino che aveva una mucca, diciamo una vacca, e gli andò a fuoco il capanno del fieno. Si rivolse al vicino per cercare di mettersi d'accordo per dar da mangiare. Il vicino avrebbe dato il fieno alla mucca finché lui non avesse ricostruito e rimesso su questa situazione. E così questa cosa va avanti per un po' di tempo. Dopo un po' nasce un vitellino da questa mucca. E allora lì inizia un attimino la diatriba. Cioè, chi si prende il vitello? Chi si prende il vitello? E allora il primo contadino disse: no, la vacca è mia e il vitello è mio. Il vicino gli diceva: no, ma la vacca l'ho nutrita io, l'ho sfamata io. Ma il toro chi l'aveva messo in questo caso? per quello questa, il problema. Questa cosa va a finire dall'avvocato. Il paese era piccolino, l'avvocato era uno solo. Allora entra il primo cliente nello studio e gli espone la questione. E l'avvocato gli risponde: non si preoccupi, perché il vitello tocca a lei di diritto, la vacca è sua, l'ha partorito la sua vacca, quindi è sua. Va l'altro contadino nello stesso studio e gli espone il problema a sua volta. E l'avvocato gli risponde: non si preoccupi per niente, perché lei ha diritto al vitello, il vitello è suo e non si preoccupi di questo. Vanno via, quindi tutti e due. Ma entrambi dallo stesso avvocato? Sempre dallo stesso avvocato, perché c'era un solo avvocato. Il figlio si rivolge al padre e dice: papà, ma non mi sembra molto onesto, cioè io non riesco a capire questo vitello di chi sarà. Tu hai detto che a tutti e due che è loro. E il padre gli risponde al figlio: non ti preoccupare, il vitello non è né di uno né di un altro, il vitello ce lo mangeremo noi. Vabbè, c'è una morale in questa storia. C'è una morale, quindi. Che alla fine con la parcella l'avvocato si mangerà lui il vitello dei due contadini. Ecco, esatto, di tutti e due. Beh, cioè, è una grande scuola di vita e conferma tutto quello che abbiamo detto finora. Sergio. Sì, buongiorno. Altre novelle, parabole. Rusantiane come questa. Rusantiane, allora. Volevo fare una premessa. Agnelli non avrà mai fatto avvocatura, però c'aveva il suo peso politico. Certo. Ecco, Totò 50 anni fa, quando fece quel film lì, fu il precursore della farsa della giustizia italiana sugli avvocati e compagnia bella. Lei si pensi che io ci ho avuto una causa di lavoro che è durata 7 anni, e quali voglio dire, vengo contro di lei, nel senso che qui non è che c'ha bisogno l'avvocato chi è colpevole, qui c'ha bisogno l'avvocato chi è innocente. Che la cosa è ben diversa. Sì, anche soprattutto chi è colpevole ha maggior bisogno di avvocato. No, chi è colpevole non ha bisogno dell'avvocato, perché comunque vaglia, gli va sempre bene. Vabbè, chi è colpevole. Se vogliamo cavalcare a sprombattuto il luogo comune, siamo qua, benissimo. Solo gli innocenti vanno in galera e i colpevoli in realtà se la fanno sempre. Va bene. No. Allora, io ci ho avuto sta causa di lavoro. È durata 7 anni, con tutte le prove che gli ho portato, prove scritte, video, e via discorrendo. Guardi, fa male più a me che a lei, però se insiste così siamo un po' fuori tema. Lei parla, io sto parlando della figura dell'avvocato. Lei ha avuto un'esperienza poco felice ovviamente con il suo avvocato, ma è molto, molto un numero infinito di persone deve lamentarsi di chi l'ha difeso quando la difesa non è stata sufficientemente capace a districarlo dalla fase processuale, e altri invece sono felici. Donatella. Sì, buongiorno. Allora, partendo dal presupposto che sono avvocato, quindi intervengo in questa trasmissione che parla di avvocati. Non chiediamo di meglio. Ecco, mi rilascio quel concetto che era stato introdotto all'inizio dell'avvocato nel cassetto, del fatto che la maggior parte delle persone brandisce l'idea della lettera dell'avvocato a minaccia continua per un non nulla. Io penso che questa cosa dipenda un po' dalla squalificazione che questa professione ha subito in questi ultimi anni, in questi parecchi anni, a fronte del fatto che ovviamente è stato dato libero accesso alla professione anche laddove non c'era magari una sostanza alla base di preparazione. Cioè, resta dire, gli avvocati vanno a dare l'esame facile in quelle città dove c'è l'esame, vanno in Spagna. Pochi anni fa, esatto, io ho 52 anni, per cui faccio l'avvocato da parecchi anni, ormai da più di 25 anni, e la situazione era un po' diversa, soprattutto magari da noi al nord. Questo ha determinato il fatto che la liberalizzazione di cui si parla adesso in realtà è in atto da tantissimi anni, quindi l'inflazione della figura dell'avvocato porta a ritenere che appunto anche il ragioniere di turno sia in grado di fare, pensi di poter fare la lettera, e quindi ci sia l'idea che la cosa sia un po' accessibile. È chiaro, Donatella, gli avvocati, dice Donatella, non sono più quelli di una volta. Sentiamo allora com'erano una volta. Dunque, cara De Blasi, di che cosa vi preoccupate? Onorevole, io dico una cosa, ma è mai possibile che uno sia accusato di un reato, come dice lei, che non ha commesso, e sia messo in galera, così, solo perché uno gli salta in testa e io sono un altro? È una situazione paradossale, direi quasi pirandelliana. Ma di che cosa vi preoccupate? Ricorreremo in appello. No, ma quale appello se mi devono ancora fare il processo? Scusi, onorevole, cosa prevede? L'accusata sarà assolta? Assolta no, anzi le dirò, non lo desidererei nemmeno, vero? Non funziona. Non lo desidererei nemmeno perché, a dire fra noi, si tratta... Giuseppe, cosa sta succedendo? Qui c'è sempre Vittorio De Sica nel bigamo di Luciano Emmer, che addirittura si cambia con un separé, si fa imborotalcare dietro questo separé durante, fra un'udienza e l'altra. dall'altra, e poi cerca insistentemente lo sguardo del fotografo, cioè la vanità della parola, però anche la nobiltà d'animo profonda di De Sica nella decadenza sublime del suo personaggio. Volevo sapere da lei, avvocato, lesione aggravata, che significa? Significa una lesione con delle circostanze aggravanti. Ah sì? Da 3 a 6 anni di carcere, ma che ti serve? Da 3 a 6 anni di carcere? Che ti serve? Sicuro? Come no? Beh, avvocato, è una doppia lesione, per esempio, aggravata. La doppia condanna? La doppia condanna. Può finire anche in corte d'assise, ma che vuoi? Che ti no, serve? No, no, è una cosa mia. Oh, dicevo un'altra cosa, è un mozzico all'orecchio con esportazione dell'obolo. Quando si prende? È uno sfregio permanente, c'è anche 12 anni di carcere. Ah sì? Come no, ma che ti serve? No, no, che... è una cosa ma mia. Ma che ti serve, scusa? 12 anni di carcere. Ma io non posso perdere tempo, dimmi perché. Perché? Perché mi serve. Aiuto! E chi azzanna Totò in questo momento? È Vincenzo Talarico, ovvero una sorta di avvocato della Magna Grecia, con i suoi capelli ravviati, col suo occhio deviato, un geniale sceneggiatore e anche scrittore di testi comici. Addirittura fu quello che innescò, dando prima la notizia dell'armistizio di Cassibile, innescò l'armistizio del 43 in qualche modo, insomma, e compariva spessissimo con questo suo eloquio prolisso, polveroso, un po' come funzionario democristiano da abbattere a seconda di chi avesse davanti, del comico di turno che lo prendeva a randellate. Qui Totò cerca di staccargli l'orecchio come Tyson a Holyfield. Si informa qual è la pena per sì, il perché galera. Vuole rimanere in galera, perché ci tiene, sta meglio in galera che fuori. Il film è Dove la libertà di Rossellini, ma questa scena la girò Fellini, perché Rossellini abbandonò il film per dissidi con Ponti. Sentiamo Carlo velocemente, siamo in chiusura. Carlo. Sì, siamo in chiusura. Buonasera. Buongiorno. Allora, io non sono un avvocato, però mi chiamano avvocato. Come mai? E come mai? Perché purtroppo... È un esercizio abusivo della professione. No, no, assolutamente, perché io, gli altri mi chiamano avvocato, io non dico di essere avvocato. Non smentisce però. No, non smentisco, ma le spiego perché. Purtroppo la vita ti porta in delle situazioni molto complesse, per cui spesso ti devi sbrigare da solo. Io una volta mi chiesero una consulenza per una persona che aveva bisogno di una cosa e mi presentò il suo avvocato, che poi è diventato il mio amico e il mio avvocato. Ora, se non che, visto che ho avuto una serie di difficoltà negli ultimi 10 anni, insieme al mio avvocato abbiamo deciso di portare avanti una serie di battaglie che per fortuna sono andate tutte a buon fine, ma di fatto poi io mi sono dedicato così anima e corpo a questa cosa, tanto da iscrivermi a giurisprudenza, sono purtroppo ancora un po' lontano dalla laurea. Sì, però ancora non è laureato, stia attento, perché esercitare il mestiere di avvocato senza avere la necessaria abilitazione e riconoscimento è un reato. Quindi abbiamo chiuso, vedi, Giuseppe Sanzon, perfetto, con la nostra missione, con un finto avvocato, un aspirante avvocato che tutti chiamano avvocato. A domani!